Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti ad una nuova puntata di Salva Danaio speciale estate. Gli ascoltatori particolarmente affezionati alla nostra trasmissione lo sanno bene, il tema di cui ci occupiamo sempre è prevalentemente il denaro, la sua gestione, il risparmio per la famiglia, l'organizzazione del budget e del bilancio familiare. Questo però non vuol dire parlare solo di borse e di mercati finanziari, di mutui e prestiti, di tasse e tassi, ma anche di abitudini, di comportamenti, di stili di vita, perché il tema del risparmio è un concetto estremamente ampio ed articolato. Risparmiare non significa solo accantonare, accumulare, ma si traduce anche in evitare di sprecare. Questi sono temi tanto cari ad un collega giornalista e scrittore che da anni approfondisce le tematiche legate alle abitudini di consumo delle famiglie italiane e più in generale alle brutte abitudini di spreco che spesso ci contraddistinguono nei nostri comportamenti. E si è appassionato al punto da allestire ed animare un sito, oltre che un premio, che si chiama proprio www.nonsprecare.it. Io saluto e ringrazio per essere con noi Antonio Galdo, giornalista e scrittore, ha pubblicato numerosi libri, poi vi racconteremo anche la sua ultima fatica editoriale. Antonio, buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno. Praticamente non sprecare, come tu suggerisci da tempo, potrebbe tranquillamente essere l'undicesimo comandamento. Beh, innanzitutto vorrei dare una notizia agli ascoltatori che dai dati che mi sono arrivati negli ultimi 6 mesi ci sono alcuni segnali importanti di riduzione degli sprechi e questo secondo me è significativo, riduzione degli sprechi innanzitutto quelli alimentari, tenete presente che eravamo diventati un popolo di gente che getta nel cestino quasi il 20% della spesa e poi stiamo imparando a usare anche l'acqua di rubinetto. Sono molto aumentate le statistiche che indicano questo consumo, che evidentemente cosa significa? Che forse stiamo imparando a consumare meno acqua minerale laddove non è necessario e quindi anche meno plastica. Forse alcune battaglie, alcune campagne che abbiamo fatto cominciano a dare dei risultati. Infatti, Antonio, toglimi subito una curiosità: quali sono le fonti alle quali attingi per elaborare poi i tuoi dati che indicano che le famiglie stanno sprecando di meno? Beh, questi sono dati che mi sono arrivati dalle associazioni dei consumatori e mi sono arrivati dal Censis, che come sapete è l'istituto di ricerca più attento a tutti i fenomeni della società italiana. E in generale poi ci sono tutti i segnali che arrivano dalla rete. Questa comunità di non sprecare si sta allargando anche grazie appunto allo strumento della rete, che offre connessioni, scambi di informazioni, per cui ricevo moltissime segnalazioni appunto di gente che spiega come evita lo spreco di cibo. Infatti. Tenete conto, e non dimenticatelo mai, che la spesa alimentare è circa un terzo del budget delle nostre famiglie. Certo. Antonio, hai notato che nei cambiamenti di abitudini da parte delle famiglie italiane ha inciso in maniera più o meno approfondita la crisi finanziaria che ci sta ancora pervadendo, oppure è anche una questione di cambiamento mentale nello stile di vita, nel comportamento in generale? La crisi agisce da leva e da stato di necessità, cioè noi stiamo evidentemente riducendo i consumi perché abbiamo una recessione lunga e temo che sarà ancora lunga, perché io non considero questa crisi solo una congiuntura negativa ma un vero e proprio cambio d'epoca. Noi dovremo abituarci a una civiltà occidentale che dopo 30 anni di declinazione dei propri stili di vita sotto il segno più, adesso declina i suoi stili di vita sotto il segno meno. Ma se questo meno si traduce in una riduzione degli sprechi, bene, queste sono secondo me delle grandissime opportunità che tutti abbiamo per migliorare la nostra qualità della vita. Non dobbiamo avere paura in questo senso di una riduzione degli stili di vita, semplicemente dobbiamo viverla appunto come una opportunità. Certo. Allora, poi racconteremo bene i contenuti dei libri nei quali hai approfondito questi concetti, cioè Non sprecare, che è il tuo primo su questo, ma hai fatto anche tanti altri lavori, anche perché sei un giornalista di lungo corso, inviato anche su questi argomenti. L'ultima fatica editoriale, come dicevo prima, è Basta poco, pubblicato da Einaudi, pensieri forti e gesti gesti semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana. Prendo a riferimento le indicazioni che tu dai nella quarta di copertina di non sprecare, Antonio, per chiederti perché siamo terribilmente spreconi, perché lo siamo per abitudine, perché siamo indifferenti, perché siamo distratti, perché siamo miopi, perché siamo viziati o siamo male educati, nel senso non educati a non sprecare. Direi per due motivi. Uno oggettivo: lo spreco è diventato un motore dell'economia, cioè l'idea che bisognasse comunque crescere attraverso più consumi, e laddove i consumi non sono necessari diventano evidentemente sprechi, quindi alimentare gli sprechi e educare il consumatore a questa bulimia del consumo. Consumo, ripeto, drogato e truccato. Questo è il fattore oggettivo. Poi c'è un fattore soggettivo che secondo me si ricollega al fatto che siamo diventati un po' tutti più indifferenti rispetto allo spreco. Se pensiamo alla nostra generazione, alle generazioni dei nostri genitori, dei nostri nonni, ma quali erano gli stili di vita sobri di quelle generazioni, noi siamo dei marziani rispetto a loro. Però questo è un punto secondo me molto importante: non sprecare conviene, quindi se ci si convince che questa correzione produce interessi, alimenta interessi, io credo che tutti la possano tranquillamente condividere. Certo. Proprio il Sole 24 Ore, faccio un esempio, e i margini sono enormi perché si spreca nelle nostre case, nei nostri comportamenti, nei nostri consumi, esattamente come si spreca nella vita pubblica. In questi giorni il Sole 24 Ore ha pubblicato una statistica sul costo della politica, 23 miliardi in Italia. Ecco, se la politica riuscisse a tagliare una cifra anche di un 20%, diciamo, questo costo che nasconde uno spreco, non avremmo bisogno di fare manovre finanziarie pesanti come quella recente. E certo. Così è nelle nostre case: se riduciamo per esempio l'uso durante l'estate dissennato dell'aria condizionata, non avremo bisogno, o meglio, saremo capaci di attutire un costo che ahimè è obbligato, l'aumento della bolletta energetica. Antonio, posso chiederti come ti sei avvicinato a queste tematiche? Perché ad un certo punto, ovviamente magari intercettandole lungo il tuo cammino professionale, hai deciso di cavalcarle in maniera così forte? Un po' mi ero stancato di parlare del caso Italia, che evidentemente considero quasi irrisolvibile, per cui avevo fatto molti libri sulle corporazioni, la sanità che non funziona, la fragilità della nostra classe dirigente. Poi ho scoperto invece questo tema perché sono appassionato all'idea del cambiamento, e io credo che questi argomenti, se li andiamo a guardare meglio da vicino, sono una straordinaria leva di cambiamento. C'è un mondo che sta cambiando attraverso la declinazione di questo concetto del non sprecare. Stanno cambiando le città, stanno cambiando gli stili di vita, stanno cambiando le abitudini d'ufficio, sta cambiando il mercato del lavoro. Attenzione, il mercato del lavoro, ci lamentiamo perché non c'è lavoro, ed è vero, ma non ci siamo accorti che sotto traccia sta tornando una cultura che rivaluta il lavoro manuale. Guarda caso il lavoro, quell'ambito dove ci sono più opportunità e più spazi per l'occupazione. Non anticipiamo nulla, perché questa è una parte del tuo ultimo libro che noi abbiamo estrapolato, e poi ne leggeremo insieme un pezzo appunto per metterla a disposizione dei nostri ascoltatori. Prima di questa però ne abbiamo scelto un altro di capitolo del tuo libro, Basta Poco. Allora sentiamolo insieme a Carmelo Lauricella, che adesso ce lo manda in onda, poi lo commentiamo insieme. Zappa per la vittoria. Quando Michelle Obama ha iniziato a coltivare un orto, rigorosamente biologico, nei 1000 metri quadrati del giardino nell'ala sud della Casa Bianca, dove Jacqueline Kennedy curava i suoi cespugli di rose iceberg, i media americani hanno parlato di un gesto semplice, ma rivoluzionario. La First Lady si è fatta fotografare mentre versava la prima palata di letame su 55 tipi di ortaggi, tra cui spinaci, peperoni, melanzane, rucola, cavoli, verza e pomodori. Escluse invece le barbabietole, non piacciono al presidente. Il messaggio di Michelle è stato esplicito. Riscoprendo vecchie abitudini si può cambiare la vita nel nuovo mondo. E per esempio combattere l'obesità che colpisce come un'epidemia al popolo americano, utilizzando sulla tavola cibo sano, prodotti agricoli locali, al posto del solito tossico junk food. O ancora migliorare l'ambiente creando nelle aree metropolitane piccoli polmoni di verde con coltivazioni che escludono l'uso di additivi chimici e di fertilizzanti. L'orto, nella strategia comunicativa della Casa Bianca, è un atto politico, un modo concreto per indicare la necessità, dopo la grande crisi e l'effetto impoverimento che ne è derivato, di nuovi modelli di sviluppo e diversi stili di vita rispetto al lungo ciclo dell'iperconsumismo predicato nell'America di Ronald Reagan. Se avete un cortile, togliete l'erba. Se non ce l'avete o vivete in un grattacielo, cercatevi un pezzetto di terra in un giardino comunitario. Ha scritto Michael Pollan, professore di giornalismo all'Università di Berkeley e autore del libro Il dilemma dell'onnivoro, con il quale ha lanciato il manifesto degli agricoltori metropolitani. Rispetto ai problemi che abbiamo davanti, piantare un orto sembra una cosa piccola e insignificante. In realtà è un gesto semplice che però contiene una delle cose più importanti che un individuo possa fare per ridurre la quota personale di inquinamento e soprattutto per diminuire il senso di dipendenza dell'industria del cibo e per cambiare il nostro modo di pensare a proposito dei risparmi energetici. Il manifesto di Pollan è molto piaciuto ai cittadini di New York e di Los Angeles e gli avvocati si sono messi all'opera per modificare i severissimi regolamenti condominiali nelle zone residenziali delle due metropoli e consentire, su larga scala, di seguire l'esempio della moglie del presidente degli Stati Uniti. E nella grande mela sono usciti dalla clandestinità perfino gli apicoltori, che possono finalmente coltivare i loro balconi come se fossero dei campi. Il municipio di New York ha infatti autorizzato l'allevamento di api in città per la produzione di miele. Antonio, Galdo, parliamo dell'orto che è attrezzato nel giardino di casa tua. Se c'è, naturalmente. Ma è una provocazione. È molto basic, però molto. Ci hai provato? Perché, per esempio, tutti i famosi odori, quindi prezzemolo, basilico, menta, eccetera, arrivano da lì. Sono riuscito quest'anno a fare anche dei buoni limoni, dei buoni aranci, mandarini cinesi. No, il mandarino cinese no, ti prego. È ricchissimo di vitamine, ma non ho un grandissimo spazio. Però guarda come attraverso la semplicità di questo gesto si può veramente sognare in grande. Tu immagina se nelle nostre città, e questo sotto traccia un po' sta avvenendo, tutti riuscissimo su un balcone, su un pezzo di terra, anche preso, incomodato dal comune, a fare un orto. Al di là del fatto in sé, diciamo, come dire, ecologico, la riduzione dell'inquinamento, qualcosa che mangi e risparmi sulla spesa, ma cambia proprio il paesaggio delle città. Avremo delle città un po' come i piccoli centri che conosciamo della nostra vicina Austria, no? Tutti circondati da verde. Non è un sogno, noi dovremmo andare in fila sotto gli uffici del comune e chiedere incomodato gli spazi per fare gli orti degli appezzamenti urbani di terreno che ci possono essere concessi per coltivare magari anche delle piccole passioni che non conosciamo, perché io onestamente non credo di avere tutto questo pollice verde, però tentar non nuoce. Detto questo, Antonio, l'immagine di Michelle Obama. Ce ne sono già 400. Ce ne sono molti, sì, è vero. Infatti anche noi stiamo un po' monitorando questo fenomeno. L'immagine, dicevo, di Michelle Obama sicuramente è stata un'immagine molto forte che è servita anche al presidente per la sua campagna elettorale, poi chiaramente per passare dal dire al fare forse la strada è un po' più complicata. Detto questo, si può cominciare anche da un piccolo spazio, come ci diceva appunto Antonio Galdo, e c'è anche un altro aspetto da considerare. Quando andiamo al supermercato a comprare frutta e verdura fresche, queste chissà da dove vengono. Certo che poter coltivare qualcosa dietro casa nostra ci fa abbattere tanti passaggi di quella contestatissima filiera, Antonio, che quindi incide poi lì anche sul portafoglio, no? Il beneficio è evidente. Sì, ci sono due effetti che nel sito Non Sprecare vengono spesso segnalati attraverso testimonianze dirette dei lettori. Abbiamo dei lettori che ci scrivono proprio facendo il conto di quanto hanno risparmiato in un anno attraverso, diciamo, l'autoproduzione, ovviamente disponendo di un po' di terra, eccetera. Gli effetti sono: il primo è un effetto simbolico, attenzione, l'obesità, e da qui la battaglia di Obama di Michelle Obama per il suo orto alla Casa Bianca. Non è un male incurabile, non è il cancro di cui non conosciamo ancora tanti aspetti e tante patologie. Sappiamo tutto dell'obesità e l'obesità nasce innanzitutto nelle cattive consuetudini alimentari. Come si correggono? Beh, tornando attraverso una piccola catena di gesti semplici a un'alimentazione sana, che per noi poi è naturale perché l'alimentazione è mediterranea, quindi non dobbiamo sforzarci molto. In secondo luogo, dietro questi gesti, diciamo, c'è un cambiamento, che questo è in sintonia con i temi di cui trattate nel tuo programma, dei consumi e quindi proprio dell'atteggiamento del consumatore, il quale per esempio in questo caso si avvicina all'idea del chilometro zero. Il chilometro zero che cos'è? Andare a comprare nei luoghi di produzione tutto ciò che è frutta, verdura, carne, eccetera. Questo è un grande risparmio ed è anche un modo per sostenere un'economia che invece resta schiacciata da questa filiera che si appesantisce. Io sono un frequentatore della Sicilia, quando vado a trovare i miei amici produttori di arance in Sicilia scopro che sono disperati, le vendono a 0,50, io le pago 3 euro a Roma, quelle buone, quindi c'è qualcosa in questa filiera che li danneggia, che danneggia tutto il sistema dell'agricoltura e che danneggia me come consumatore. Magari potessi comprarli da loro direttamente, cosa che ovviamente adesso sto facendo. Però insomma non è che puoi neanche farti una scorta di due mesi, inevitabilmente. Esatto. Antonio, è vero che tu non possiedi la macchina e che hai scientificamente deciso di non possederla? Sì, vorrei tranquillizzare gli ascoltatori, non sono un barbone, non sono un guru, vivo come dire in un discreto benessere che mi è dato dalla fortuna di fare un lavoro che ancora viene pagato bene e sono libero da questa schiavitù, non ho la macchina, vivo meglio, non ho la macchina perché? Perché non ho più problemi di traffico, non ho più problemi di multe, non ho più problemi di parcheggi, non ho più problemi di assicurazioni, di aumento della benzina, utilizzo mezzi pubblici quando posso, cammino molto, Roma è una città che ha dei parchi bellissimi, ho un motorino che quando mi devo spostare posso usare o un semplice mezzo pubblico. Vorrei dire per esempio, sì, ogni volta io ho vissuto a Milano, vengo a Milano più o meno una volta al mese per lavoro eccetera, beh insomma girare per il centro storico di Milano con la macchina secondo me è una follia, esistono tram, metropolitane, cioè la rete del mezzo pubblico a Milano, nel centro di Milano sto parlando, poi la periferia è un altro tema, funziona benissimo, a Roma ci sono dei magnifici bus infatti, però Antonio adesso è chiaro che per chi vive tra Roma e Milano magari come dire ha una possibilità di utilizzare i mezzi pubblici che sicuramente non è la stessa di chi vive magari in periferia, in piccoli centri e che per ovviamente per potersi spostare deve necessariamente utilizzare la macchina, allora magari per risparmiare e vivere all'insegna di un minor spreco può cominciare a cambiare un altro tipo di abitudini. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio in questa speciale puntata estiva. Oggi ci stiamo intrattenendo in una molto interessante, divertente chiacchierata con Antonio Galdo, collega giornalista, scrittore e autore di alcuni volumi che si dedicano soprattutto alle brutte abitudini di molte famiglie italiane. Brutte abitudini nel senso che siamo portati a risparmiare poco quando si tratta per esempio di cibo, di energia, carburanti, insomma siamo degli spreconi, però la crisi sta portando dei cambiamenti in questo nostro stile di vita e ci sono dei fenomeni che sono studiati anche da molto tempo e che Antonio Galdo sta osservando da anni con grande attenzione al punto di averci scritto appunto alcuni libri. Il primo è Non sprecare, il secondo è Basta poco, uscito da poco. Oltre a questo Antonio magari ricordiamo anche il premio di cui ti sei fatto promotore, proprio Non sprecare, a chi è rivolto e come è organizzato. Sì, il premio è... Tutti i nostri ascoltatori possono partecipare e trovare le indicazioni sul sito Non sprecare, c'è una sezione specifica. È un premio che viene diviso in quattro sezioni, c'è cioè il personaggio, un'azienda, una istituzione o associazione, una scuola. Chi premiamo? Premiamo delle buone pratiche, cioè gente che segnala come si può non sprecare. Devo dire che solo attraverso la rete, perché è un premio povero, quindi non abbiamo risorse per grandi campagne pubblicitarie, abbiamo già ricevuto circa 500 segnalazioni. Lo consegneremo a fine ottobre al Festival della Scienza a Genova e c'è tempo per partecipare fino al 15 settembre. Mm. Che cosa si vince? Beh, insomma, soldi non se ne vincono, però si vincono dei prodotti biologici di grandissima qualità di un'azienda italiana al Ceneiro che vengono assegnati in proporzione al peso del premiato, quindi ciascun premiato riceverà il proprio peso in prodotti biologici di altissima qualità. Tra l'altro, Antonio, stavi dicendo prima una cosa interessante: il nostro è un premio povero, quindi può farsi conoscere solamente attraverso la rete, e per fortuna che c'è questa, che ci permette di evitare di sprecare tanta carta. Sì, è uno dei grandi sprechi che avviene innanzitutto nei nostri uffici. Dai un occhio anche a quello che succede dalle tue parti, insomma. Gli italiani sono ai primissimi posti. Mediamente un dipendente ogni giorno consuma 32 foglie di carta. Pensate che un albero vale 15.000 foglie, quindi fate un po' le somme e pensate quanti alberi si possono risparmiare evitando questo inutile spreco. Certo. Come si fa a evitare? Beh, sul sito Non Sprecare trovate tutte le indicazioni pratiche, ma basta senza nessuna particolare ossessione evitare stampe inutili, usare due volte lo stesso foglio, comunicare laddove è possibile via mail, insomma gesti semplici, però infatti, secondo me bisogna partire proprio dall'idea di capire che cosa significa questo enorme spreco di carta. Infatti, Antonio, raccontaci un po' invece quali sono i contenuti del tuo ultimo libro, Basta Poco, Pensieri Forti e Gesti Semplici per una nuova ecologia della vita quotidiana. Beh, in qualche modo hai accennato all'idea che questo libro è un libro che va un po' avanti, nel senso che propone un cambiamento che non è ossessivo, che non è, non dobbiamo diventare tutti dei francescani, non dobbiamo diventare tutti dei guru dell'ecologia, dobbiamo recuperare la semplicità nei nostri comportamenti laddove è utile, ripeto, muovendo innanzitutto la molla degli interessi e cambiando dei paradigmi. L'automobile è stata un oggetto di grande, un simbolo di libertà del secondo Novecento, poi è diventato l'oggetto della schiavitù, specie per i trasporti urbani, per i disagi che comporta. Adesso il paradigma cambia, come? Usando meno l'auto e spingendo tutta l'industria dell'automobile a un grande cambio di tecnologia, che significa auto a consumi ridotti, se non con la nuova tecnologia che è quella, dal mio punto di vista, più affascinante, è la tecnologia elettrica. Usare meno l'auto non è un gesto, diciamo, come dire, faticoso nelle città, nei centri storici, attenzione, ma è un gesto semplice ed è un gesto che deve far riflettere nel momento in cui abbiamo un consumo di automobili. In Italia ne abbiamo 67 ogni 100 abitanti, la Germania, che è un paese più ricco di noi, sta 10 punti sotto in questo consumo. Attenzione, come usiamo l'automobile? Male, malissimo, perché in quasi il 30% dei casi la usiamo per percorsi sotto un chilometro. Allora non è il pendolare che arriva dalla periferia, poverino di Roma, che purtroppo è costretto a usare l'auto, questo è il cittadino romano che vuole andare in centro storico magari con un permesso di falso invalido davanti al negozio sotto casa dell'amico. Questo è l'uso dell'auto che dobbiamo scoraggiare, questo è lo spreco, questo è quello che, come dire, contribuisce a peggiorare la nostra qualità della vita e i nostri budget e asciuga il nostro salvadanaio. Nel frattempo, anche qui, perché tutto questo mi interessa come, ripeto, leva di un cambiamento, attenzione, sotto traccia gli italiani stanno molto più avanti di come sembra leggendo i nostri giornali. Sai quanti sono oggi gli italiani che vanno in bicicletta al lavoro, mediamente? Ma tanti movimenti anche che si impegnano, per esempio, nella discussione con le amministrazioni comunali per costruire piste ciclabili nei paesi. Certo, ci sono tante sensibilità intorno a questo argomento che qualche volta ovviamente passano un po' sotto traccia, perché sono dei piccoli movimenti che ovviamente non riescono anche a portarsi alla ribalta della cronaca. Però l'importante è che ci siano. Peraltro, Antonio, sono 6 milioni, 6 milioni. In questo momento ci sono 6 milioni di italiani che vanno a lavorare in bicicletta. Mm-hmm. Ci sono molte amministrazioni del centro nord che organizzano il servizio di bike sharing, cioè sì, giri il centro con la bicicletta. Antonio, qual è secondo te di tutte quelle che conosciamo, tu hai a lungo parlato soprattutto del nostro utilizzo dell'auto che facciamo fatica ad abbandonare, siamo molto comodi e viziati in questo senso, qual è secondo te l'abitudine che l'italiano come sprecone fa più fatica ad abbandonare, quella verso la quale invece sarebbe più disponibile a cambiare se ci si lavorasse un po' di più nel fargli capire che è sbagliata e che porta allo spreco? Beh, l'auto sicuramente è un grande cambio di paradigma e purtroppo secondo me è un po' la rappresentazione di questa idea di benessere che abbiniamo ancora all'automobile. Io credo che in molte regioni d'Italia l'auto sia ancora uno status symbol, per cui rinunciarci in qualche modo ci fa sentire più poveri. Siccome questa è l'ossessione che viviamo, cioè di diventare più poveri, evidentemente ci aggrappiamo ancora a questi simboli, come è il caso dell'automobile. Quei 6 milioni, guarda caso, sono quasi per i due terzi concentrati nel centro-nord e invece dovrebbero stare al sud, dove anche le condizioni climatiche favoriscono l'uso della bicicletta o delle passeggiate. E questo significa che purtroppo nel sud, come ti dicevo, l'auto è ancora uno status symbol. Tra l'altro non ne abbiamo parlato, ma tra le alternative all'automobile c'è il piacere della passeggiata, che io racconto nel libro Basta Poco, cioè l'idea di recuperare il proprio tempo, i propri spazi, di non essere sempre oppressi dalla fretta, questa idea che dobbiamo correre, non si capisce bene poi neanche per andare dove, dobbiamo correre perché abbiamo costruito queste vite un po' usa e getta, queste che io chiamo le vite a cronometro, no? Siamo sempre impegnati in una corsa. Ecco, questo tipo di spreco secondo me ci aiuta anche a riflettere poi evidentemente su cose che non sono proprio quelle che infili nel salvadanaio, per restare al titolo del tuo programma, ma che infili dentro te stesso. Quindi una vita così affannosa, così legata a compulsioni o a pulsioni che dir si voglia, è una vita che per esempio leva dall'orizzonte l'esistenza degli altri e quindi è una vita che ti chiude in se stessi. Che bella immagine, Antonio. Allora, poi andremo anche invece a quella abitudine sulla quale magari le famiglie italiane, per non sprecare, sono più propense a trattare, per cambiarla naturalmente, però c'è tutto il tema anche di come sta cambiando in un'ottica di non spreco il mercato del lavoro. E sentite allora le teorie di Antonio Galdo, sempre in questo stralcio tratto dal suo libro Basta Poco. Largo agli artigiani. La riscoperta dell'economia fai da te, dalla manutenzione al giardinaggio, il ritorno dell'homo faber, consapevole della forza della manualità, non indicano soltanto l'approccio verso nuovi stili di vita. Rappresentano concrete opportunità di occupazione, purché si affermi, anche nel mercato del lavoro, un cambio di paradigma, un diverso appeal per mestieri che sembravano condannati alla scomparsa e comunque non rientravano più nelle aspettative delle nuove generazioni. La potenziale novità è stata afferrata al volo dal presidente Barack Obama, che ha voluto tra i suoi consulenti alla Casa Bianca il professore Richard Sennett, titolare della cattedra di sociologia alla New York University e alla London School of Economics. Sennett è l'autore di un saggio, L'uomo artigiano, che rimette al centro dell'economia il buon lavoro fatto con arte, intelligenza, sapienza manuale e conoscenza. La società moderna tende a sottolineare le differenze di abilità. La sua economia, basata su competenze sempre più specializzate, cerca di continuo di separare gli intelligenti dagli stupidi, scrive Sennett. Ma avevano ragione gli illuministi, almeno per quello che riguarda la perizia dell'artigianato. Tutti condividiamo pressappoco, nella stessa misura, le capacità grezze che ci consentono di diventare bravi artigiani. È nella motivazione e nell'aspirazione alla qualità che le strade degli uomini si dividono. Uno studio della Confartigianato dimostra come in Italia nel 2010, in piena crisi economica, l'universo dei lavori manuali legati proprio alla manutenzione riusciva a creare circa 100.000 nuovi posti di lavoro. Un boom. Nelle grandi città, dove si era gonfiata la bolla dei precari nei call center, crescono piccole botteghe artigianali e il 70% degli apprendisti di questi laboratori viene poi assunto con contratti a tempo indeterminato. Ma la strada del cambiamento è ancora lunga e questi sono solo i primi, timidi segnali di un'inversione di rotta. Antonio, quanti italiani hanno le mani d'oro e non lo sanno e come possono fare per scoprirlo? Approfittare della crisi per cominciare un po' a riparare gli elettrodomestici a casa, a fare da soli? Beh, sugli elettrodomestici innanzitutto per iniziamo a ribellarci ai negozianti che pretendono ogni volta che portiamo un elettrodomestico per riparare un piccolo pezzo e ci rispondono che conviene comprarlo nuovo, quindi alziamo la voce. Perché non è vero, spesso un elettrodomestico ha una vita molto più lunga di quello che noi immaginiamo solo attraverso una buona e sana manutenzione. Sul lavoro, io sono purtroppo un grande distruttore di pantaloni, giacche, camicie, per cui forse mi muovo male. Ma quindi insomma, mi stai dicendo che hai imparato anche a cucire per sistemarti no, le toppe? Assolutamente, però voglio dire che invece avevo una bravissima sarcitrice che mi faceva questi lavoretti nel centro di Roma. Poi un giorno arrivo e scopro che la sua bottega è chiusa. Poi la fortuna ha voluto che ne ho ritrovato un'altra sotto il mio ufficio, che devo dire vive questa sua, ha vissuto per anni in modo un po' desolante, un negozio non frequentato quasi. Adesso invece la cosa singolare è nata una sua concorrente, una bottega concorrente con 6 ragazze che si sono messe in proprio a fare questa attività. Allora, la domanda che io faccio a un giovane disoccupato è questa: ti interessa più una prospettiva di questo genere o un posto in un call center a 10 ore al giorno a rispondere a quelli che devono fare un biglietto aereo o devono chiedere un'informazione? Hai un'idea di quali possono essere le prospettive che arrivano da questo tipo di lavori? Ecco, io credo che questa sia una vera rivoluzione del mercato del lavoro. Quei dati che io citavo nel libro Basta Poco, attenzione, li sono andato poi a approfondirli anche con uno studio di un istituto di ricerca del Censis, dimostrano che quei lavori, quei posti che ogni anno producono quelle opportunità, quindi parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro, guarda caso gli italiani non li fanno più. E non sto parlando solo dello sciacquapiatti, del terzo collaboratore di un cuoco, eccetera. Sto parlando di tutti i lavori che fanno a che fare con la manualità e la manutenzione. Questi lavori li abbiamo regalati agli immigrati, il che ovviamente è positivo perché ha consentito l'integrazione degli immigrati, ma forse abbiamo perso qualcosa noi. Salva Danaio. L'ultima parte del nostro Salva Danaio speciale estate. Quest'oggi siamo insieme ad Antonio Galdo, un collega giornalista, scrittore, inviato per molti settimanali italiani per molto tempo, è stato anche direttore di un quotidiano. Peraltro negli ultimi anni poi si è appassionato di questi argomenti legati agli stili di vita e di consumo delle famiglie e ai temi legati al non sprecare. Questo peraltro è anche il titolo del sito che ha allestito su questi argomenti, www.nonsprecare.it. Ha scritto un libro, Non sprecare, seguito poi da Basta Poco, di cui abbiamo raccontato poco fa, e insomma stiamo un po' esplorando il mondo delle abitudini degli italiani, spreconi per educazione e adesso un po' più virtuosi nei comportamenti, anche per necessità e anche per gli effetti appunto che questa devastante crisi che ci stiamo ancora portando appiccicati addosso appunto ha provocato. Antonio, questo sito ha ormai qualche anno di vita. Io credo che sia animato anche dalle testimonianze che magari gli utenti ti inviano. Ce n'è qualcuna che ti piacerebbe raccontarci e magari di qualcuno che ha cambiato, anche se non radicalmente, il proprio modo di comportarsi in qualità di consumatore e che ti ha così particolarmente colpito e che possiamo raccontare anche ai nostri ascoltatori anche come suggerimento di cambiamento senza stravolgere completamente le abitudini familiari? Ma questo sito ha 2 anni di vita e 2 anni fa, quando siamo nati, le segnalazioni erano quelle più disperate o tutte di segno negativo, nel senso che per esempio un giorno una madre veramente mi stupì scrivendomi che la figlia le aveva rubato la carta di credito e in un giorno aveva comprato 21 paio di scarpe, quindi lei mi chiedeva cosa devo fare e ovviamente non ero in condizione di dare nessun consiglio se non quello di rivolgersi a un medico, perché sì, beh, qui c'è del patologico ovviamente in questa patologia. Ecco, oggi sullo sprecare le segnalazioni che mettiamo in rete, che arrivano e che traduciamo poi in tutta una serie di indicazioni appunto per non sprecare, sono di segno positivo, sono di segno, c'è una magnifica signora che mi ha mandato per esempio delle ricette tutte a base di avanzi, le ho passate a una collaboratrice a casa mia, ha fatto una cucina fantastica, c'è quello che racconta come ho attrezzato la propria casa sulla base della riduzione dei consumi energetici, c'è chi spiega che cos'è la cosiddetta ventilazione naturale, quella che facevano gli antichi romani, cioè aprire tutte le finestre e far corrente in casa, insomma, che è una cosa abbastanza semplice, però ha una sua tecnica e che significa ridurre i consumi dei condizionatori. Ecco, è questa sorta di comunità che cresce, che e poi ci sono anche comportamenti virtuosi delle amministrazioni, insomma ci sono amministrazioni che mi scrivono segnalandomi che nei loro comuni la differenziata arriva al 70-80%. Molti mi chiedono, specie in questi giorni, perché non riusciamo a smaltire gli elettrodomestici, perché poi in Italia si fanno le leggi ma non si applicano. Sì. Ebbene, questo diciamolo anche agli ascoltatori, che tutti siano informati del fatto che quando compriamo un nuovo elettrodomestico il negoziante ha il dovere di smaltire quello che noi evidentemente vogliamo eliminare. Questo significa evitare che quell'oggetto finisca in strada o su un marciapiede o in una discarica, come a Roma che se n'è creata una lungo un chilometro. Ah beh, così proprio auto sul lungotevere a cielo aperto, una discarica fatta di lavatrici, aspirapolvere, PC, cellulari, eccetera. E l'altro grande vantaggio è che quell'oggetto ha una seconda vita, nel senso che quasi il 90% del materiale che contiene viene riutilizzato. Ecco, sul sito Non Sprecare arrivano molte queste richieste, dicendo anche che chiedendomi proprio come si fa a smaltire. Poi bisogna informarsi, perché ormai ci sono in tutti i comuni civili dove sono le isole ecologiche, cioè quelle dove dobbiamo buttare questo tipo di elettrodomestici. Una cosa non dobbiamo fare: infilare un cellulare usato o comunque non più funzionante nel cestino dove nella mettiamo spazzatura. I rifiuti. Allora, organici. Se possiamo in qualche maniera cambiare le abitudini di consumo, il cibo che mettiamo sul tavolo a pranzo e a cena, se possiamo risparmiare sulla luce e sul gas, cercando di tenere un po' spenta appunto la luce durante la giornata, consumare un po' meno gas, sicuramente facciamo un po' più fatica ad utilizzare meno acqua. Ci piace molto fare una doccia lunga e rinfrescante che duri un po' più a lungo del dovuto, bere molto, lasciar scorrere l'acqua inutilmente quando si lavano i piatti e quant'altro. Lo sentiamo un po' sull'acqua, Basta poco di Antonio Galdo, che cosa dice? La guerra per l'acqua. Anche l'acqua, come il cibo, ha due facce. Nelle società degli eccessi, dell'opulenza e degli sprechi, l'acqua è considerata un bene le cui riserve sono infinite. Possiamo scialare senza danni. Nei paesi poveri, invece, l'acqua è una risorsa molto spesso rara e comunque insufficiente. La sua disponibilità è perfino la fonte principale di guerre, che dietro a presunti conflitti etnici e religiosi, in realtà, nascondono una spietata rincorsa agli approvvigionamenti idrici. Nei paesi del sud del mondo, le principali vittime per la mancanza di acqua sono i bambini. Ne muoiono ogni anno 1,8 milioni sotto i 5 anni per malattie come il tifo, il colera, la dissenteria, la gastroenterite, mentre la metà dei letti negli ospedali di queste nazioni è occupata da pazienti che soffrono di malattie legate al consumo di acqua contaminata. Una strage. Alla quale corrisponde, nel nord del mondo, lo spreco dell'acqua, che riguarda sia gli stili di vita sia la fragilità delle reti di distribuzione. Un cittadino americano, mediamente, dispone di 425 litri di acqua al giorno, un italiano di 237 litri, ai quali bisogna aggiungere i 104 litri che vanno persi per i guasti delle condutture. Loro crepano, noi sprechiamo. Stringere i tempi sotto la doccia, ridurre gli scarichi in bagno e aprire il rubinetto solo quando è necessario può significare una riduzione dei consumi di acqua tra il 20 e il 30%. Sembra una cifra enorme, Un traguardo molto ambizioso che si può raggiungere solo attraverso gesti semplici di buone abitudini domestiche. Antonio, mentre stavamo ascoltando questo contributo, il mio tecnico che oggi mi assiste qui per questa puntata di Salvadanaio, Carmelo Lauricella, mi diceva: ma a me non sembra di consumare in media una cifra di questo tipo di litri d'acqua durante il giorno, eppure in realtà è molto facile raggiungere certe cifre, a volte anche inconsapevolmente. Per questo dobbiamo mettere un po' di testa sul consumo dell'acqua. Beh, insomma, il lavaggio di un'auto partono 100 litri, quindi è facile. Poi ovviamente le statistiche fanno le medie, come è noto, però vedi, l'acqua è secondo me proprio il paradigma di questa rivoluzione, già, perché io propongo una rivoluzione non violenta, e una rivoluzione sulla combinazione di questi gesti semplici, perché in fondo chiudere un rubinetto mentre si lavano i denti è un gesto semplice, oppure consumare meno acqua minerale e più acqua del rubinetto è un gesto semplice, con un pensiero forte. Qui qual è il pensiero forte? È che noi, secondo me, abbiamo questi livelli di consumo dell'acqua perché siamo convinti che l'acqua sia un bene inesauribile. Inesauribile. Non è così. Ma non è così non solo in questa parte del mondo dove viviamo, ma non è così a maggior ragione in quella parte del mondo dove per l'acqua si combattono delle guerre secolari. Insomma, il conflitto arabo-israeliano, che poi arriva attraverso le torri gemelle nelle nostre case, nasce sull'acqua, nasce sulla spartizione e sul controllo delle fonti idriche. Allora, se noi riuscissimo a entrare in questo ordine di idee e a considerare l'acqua un bene finito, forse possiamo cominciare a consumarne meno. E devo dire che, per esempio, il ritorno all'acqua naturale, che è una battaglia che ho fatto sul sito anche, diciamo, in buona compagnia, perché una grande società di distribuzione come la Coop ha fatto una battaglia a favore dell'acqua di rubinetto, eccetera. Questo, secondo me, è un segno di cambiamento che ci consente di guardare avanti. Ma vi sembra possibile che gli italiani sono i terzi consumatori al mondo di acqua minerale, dopo il Messico, che è un paese interamente inquinato, e l'Arabia Saudita, dove l'acqua non c'è? Non c'è qualcosa di strano in questa statistica. Che non funziona. Antonio, perché, oppure magari lo hai già fatto e a me non risulta, stiamo quasi concludendo la trasmissione, quindi qualche ultimo messaggio ai nostri ascoltatori. Ti è capitato di portare queste due battaglie nelle scuole, o magari anche nelle scuole materne, per cominciare già ai piccolini ad insegnare questi piccoli gesti? Io quest'anno ho fatto 30 incontri nelle scuole, nel senso che ho degli inviti, e quando mi invita una scuola io dico sempre sì, in qualsiasi parte d'Italia si trovi. E credo però che questo lo dico ai presidi, lo dico anche a chi ha una responsabilità politica in questo settore, forse è il caso di ragionare se questa materia non debba in qualche modo rientrare nel recupero dell'educazione civica, che oggi non ha più molto senso in modo astratto, ma legata a questa idea del non sprecare, secondo me è interessante. Tutti possiamo diventare i pionieri dell'undicesimo comandamento, non sprecare. Antonio Galdo, grazie per essere stato con noi, naturalmente buon lavoro per le tue battaglie. E raccontaci come va il premio, presto. Grazie. Grazie a Gaia Romani e a Marco Lombardo per la collaborazione in redazione, Carmelo Lauricella in assistenza tecnica, da Deborah Rosciani. Buona giornata a tutti.